I papà, esseri imperfetti con qualche difetto, eppure tanto amati, desiderati, ricercati, anche quando il papà di qualcun altro sembra un meglio del nostro papà, in fondo, nostro padre è pur sempre il mio papà. Condividete con me questa cosa? Non cercate il papà perfetto, non esiste, ma si può migliorare. E questo lo dico ai papà, ma tutto quello che ci diremo questa mattina lo diciamo principalmente a noi stessi. Uomini, donne, ragazzi, ragazze, bimbi, ci sono anche i bimbi questa mattina con noi, grazie che ci siete, bimbi. Non esiste il papà perfetto, non esiste la persona perfetta, ma si può migliorare e si può cercare un modello da imitare che è quello più alto, più bello, più perfetto che ci sia, e questo è Gesù. Ed è di questo che parleremo stamattina. Però prima di, insomma, andare verso i discorsi quelli un po' più seri, mi servono dei papà. Ovviamente, per la festa del papà, cosa ci servono? Dei papà. Papà con figli, maschio o femmina, il figlio è indipendente ora. Non c'è il limite di età, quindi non significa che deve essere necessariamente un papà con un figlio piccolino. Anche un papà con un figlio di 30 anni, insomma, può partecipare a questa cosa che vi propongo. È una sfida. Una delle caratteristiche che più emerge quando si chiede a un bambino com'è tuo papà, il bambino dice è forte. Io ricordo quando eravamo piccolini, io e i miei fratelli, quello che facevamo era andare da mio padre e vedere sempre se il bicipite era duro, quasi ad accertarci che lui fosse ancora forte. E i nostri papà sono forti, però questa mattina io voglio chiedere ai papà una prova di forza. Ok, quindi non perdiamo tantissimo tempo, belli, veloci, attivi, ragazzi, su, mi servono 5 coppie di papà con figlio da quella parte lì in fondo e 5 coppie di papà con figlio in quell'angolo lì. Se non vi alzate volontariamente incomincio a chiamare, tanto ne conosco tantissime di coppie, quindi forza, quanti ne abbiamo? Uno, in fondo lì, all'angolo, in fondo, da questa parte nessuno? Forza Michele con papà Giuseppe, a quell'angolo, quante ce ne sono lì, accoglienza, aiutatemi in quell'angolo, nel momento in cui si raggiunge 5 anche da lì, lì, Giuseppe con papà in fondo, vicino alla locandina, sì, beh, quanti ne abbiamo lì? 4, un'altra lì e altre 4 qui. Sì, pure i figli grandi, ragazzi, non solo i bambini, ho detto, Anche il nonno, sì, il nonno, lo zio. Guardate, non c'è problema. Bellissima questa cosa di Stefano e Noemi, ci sarà da ridere. Chi altro c'è da ridere? Lì manca ancora uno, forza, una coppia da quella parte. Gustavo, Cristian e zio Antonio, perfetto, forza. Antonio Altamura, sì. Quindi ci siamo 5-5? Ci siamo? Perfetto, il gioco è semplice. Partirà una base musicale e i nostri papà dovranno farci vedere quanto sono forti trasportando. Voi avete visto la locandina, cioè quello che proponeva un po' l'evento? Cioè, li potete mettere sulla spalla, sotto il braccio, la carriola, fate voi come volete, insomma. Vince ovviamente la squadra che per primi, come squadra, insomma, arrivano a questo angolo qua e quella squadra a questo angolo qua. È semplice, se non avete capito, cari papà, chiedete ai figli che loro capiscono sempre molto velocemente i giochi. Attenzione a non farvi male, non c'è assicurazione, non vi copriamo nulla. E quindi preparatevi già, sistematevi un po', decidete anche l'ordine, 10 secondi, quando in regia è pronta la base, datemi un segno, sì. Partiamo fra 5, 4, 3... 2, 1, via! Forza! Forza, vediamo chi vince, chi vince, chi vince, chi vince, chi vince, chi vince, chi vince! Forza, forza, forza, forza, forza, forza, forza, forza, forza, forza, forza, forza, forza, forza, forza! Qua il problema adesso è che i papà sono tutti forti. Come facciamo a capire chi è che ha... Tuo padre è il più forte ed è... No, non voglio dire nulla, però insomma ha dato dimostrazione di forza oggi Stefano. Beh, mi sa che avete vinto tutti, il premio ve lo devo dare a chiunque, vai. Però ovviamente il premio per questa volta, solo per questa volta, va ai figli. Perché insomma, papà mi dice sempre, ero bambino e mia madre mi diceva, no, il pezzo più grosso va a tuo padre che deve andare a lavorare. Sei diventato papà e dici, no, questo va a tuo figlio che deve crescere. Quindi manteniamo la tradizione. Aspetta che vi porto gli altri. Vieni Michele, vieni qua, Michele, vieni, vieni. Beh, ai figli. Ah, uno per te, uno per te. Papà ha portato tutti e due. Wow! Anche Giovanni, tutti e due. Io ho i... Ehi, a tuo figlio, mica te la cioccolata. Subito, mette la mano, quello. Ah, era Loki. Grazie papà. Siete formidabili, siete fortissimi. Grazie che vi mettete in gioco e lo continuate a fare a tutte le età. Sono forti i nostri papà. Vi siete mai chiesti come si fa a diventare papà? O meglio, la fase iniziale la sappiamo. Ma come si diventa papà? La domanda che ci si pone normalmente, ma il papà è quello che biologicamente ha messo al mondo un figlio? Naturalmente parlando, sì. Però poi papà sono, potrebbero essere tante altre persone. Si dice che è papà la figura significativa per il bambino nella fase dell'infanzia, ma quel significato che quell'uomo ha acquisito durante l'infanzia di un bambino è un significato che si porta poi avanti per tutta la famiglia. C'è molto spesso una discriminante negativa, perché tanti papà naturali non lo sono stati, e poi i nonni e gli zii si sono improvvisati dei papà, e anche nonni e zii non si nasce in questa maniera. A un certo punto ti scopri nonno, a un certo punto ti scopri zio, e come si fa? E la domanda è dovuta, e le risposte, wow, a bizzeffe. Andate su internet, andate in libreria e trovate libri e libri, ora anche su come essere nonni, su come essere zii, su come essere nonni acquisiti, zii acquisiti, cioè c'è di tutto. Però, da professionista dell'educazione, vi dico che tutti questi libri, tutti i manuali che potete trovare, non vi daranno mai, e non fidatevi di quelli che invece vi dicono il contrario, non vi daranno mai la sicurezza del successo. Tutti i metodi e gli stili educativi che si potrebbero scegliere, per quanto giusti siano, non hanno mai in sé la sicurezza del successo che la cosa possa funzionare. Vi dico, per esperienza, non di genitore, ma di educatore, che i tentativi, e voi genitori li sapete benissimo queste cose, se ne fanno, e se ne fanno tantissimi. Non sempre riescono, c'è quello che riesce e quello che non riesce, però bisogna anche tentare. Perché? Perché non si nasce papà, non si nasce mamma, non si nasce zii, nonni. E quindi, come facciamo? Un modello di riferimento ci serve pure. E noi, a volte, facciamo un po' troppo gli ingenui. E dico, se siamo ingenui, cresceremo anche una generazione ingenua. Stamattina suona un campanellino, drin drin drin drin drin drin drin, che dice sveglia ragazzi. Non accettate quello che la società sta dicendo in nome della postmodernità. Perché oramai la modernità è finita addirittura, si è passati alla postmodernità, cioè a quello che viene oltre quello che noi abbiamo definito fino ad oggi moderno. E la postmodernità è la fine di tutto. Perché sapete cosa è stato detto? Che non c'è più verità. La postmodernità dice, ragazzi, non c'è più verità. Non credete più a nulla. Vivete. Siate quello che volete. È la bugia più grande. È la bugia che più sta seminando morte in questa società. E purtroppo le nostre case non ne sono esenti. Noi risentiamo degli effetti di tutta questa grande bugia. Ed ecco l'importanza di dover scegliere un modello che sia un modello forte, che sia un modello stabile, un modello che non si fa cogliere impreparato quando qualcuno dice non esiste più la verità. Gesù si è proposto come la verità. E il fatto che lo abbia detto Secondo me è perché già sapeva che sarebbe arrivato il momento in cui qualcuno avrebbe detto «la verità non esiste più». Sapete quando, guardate il gioco di parole, dire che la verità non esiste più significa dire che Gesù non esiste più. Perché Gesù si è presentato come la verità. Ora, la tua fede cosa ti dice? Ti dice che Gesù esiste? E allora la verità esiste ancora. Ed è una verità assoluta, è una verità che non può cambiare, è una verità che è tale da quando, se possiamo determinare un inizio, ha una fine che non esiste. Gesù è la verità, è la parola di Dio, è verità anche in termini di educazione, è anche verità nei termini di come un padre dovrebbe comportarsi nei confronti del proprio figlio, di come i figli dovrebbero comportarsi nei confronti dei propri padri, e così ancora il rapporto coniugale tra marito e moglie, e anche le relazioni, quelle nel contesto lavorativo, sociale, sono prese in considerazione nella Bibbia. E queste cose partono dai primi capitoli della Bibbia e come concetti si ritrovano stabili, immutati, fino alle epistole, cioè fino quindi alla fine della Bibbia. Che cosa significa? Che Dio dà molta, ma molta importanza a questi, quelli che noi potremmo definire concetti, ma non sono concetti. Perché se tali fossero, allora io sarei il primo a dire, beh, sono concetti, hanno il fine al momento, al presente, ma non producono un effettivo cambiamento, non mi danno un effettivo modello a cui riferirmi. È come se vi dovessi dire, per essere delle brave persone bisogna salutare sempre, dire buongiorno, grazie, ok, perfetto. Ma questo effettivamente ci rende delle persone migliori? Se io ai padri dovessi dire, cari papà, voi dovete essere sempre amorevoli con i vostri figli, voi mi direste, beh, Luigi, è certo, è normalissimo che un papà sia amorevole col proprio figlio, con la propria figlia. Ma poi, questo accade sempre. È Dio che sa che noi uomini, uomini ora in senso umanità, siamo un po' labili, un po' deboli nel momento in cui diciamo io voglio, io vorrei, potrei, ma in quel momento già stiamo insinuando il dubbio che non ce la faremo. Dio cosa fa? Ci presenta sì le prescrizioni, ecco, la Bibbia a volte le chiama proprio in questi termini, prescrizioni, comandamenti, consigli, però ha capito che questo non ci basta per poterci cambiare e lì ha dovuto fare, dire a Gesù, che in questo caso io chiamo la chiave di volta, quella che tu inserisci, ta, e si apre una cosa nuova. Ha detto a Gesù, vai sulla terra in maniera tale che l'amore di Dio Padre possa essere rivelato agli uomini e loro possano incominciare non più a vivere le regole, ma possano incominciare a vivere una identità in Cristo Gesù, in relazione al Padre. Sapete, Gesù quando era sulla terra è stato uomo al 100%, oltre ad essere ancora Dio al 100%, ma nell'essere uomo ha mantenuto quell'unione col Padre. Gesù stesso dice, io sono uno con il Padre. Ed è questa unione che ha permesso a Gesù sulla terra di essere ubbidiente, di avere la forza, di poter sperare che la promessa del Padre di riportarlo alla gloria dei cieli si sarebbe mantenuta. Se Gesù per un istante si fosse staccato da Dio, ipotizziamo questa cosa impossibile, ma se si fosse staccato da Dio, che cosa sarebbe successo? Sarebbe stato sommerso dalle paure, dalle angosce, dalla mancanza di fiducia che quello che il Padre gli aveva promesso poteva avverarsi. E proprio perché Gesù sapeva che la sua forza era nell'unione con Dio, che a un certo punto lui prega, Padre, come io e te siamo uno, anche loro, cioè noi, siano uno in te. Cosa stava dicendo Gesù a noi? Che abbiamo necessariamente bisogno di essere uniti a Dio Padre, perché diversamente non ce la possiamo fare, ragazzi. Io ve lo dico chiaramente, se pensiamo di poter vivere le relazioni, qualunque esse siano, genitoriale, coniugale, amicizia, rapporti lavorativi, senza Gesù, sapete benissimo che cosa succede. Non ve lo devo neanche spiegare più di tanto. Sapete quanto è difficile, quanto complicato è. Io non rinnego l'esempio che mi ha dato mio padre. Il nodo alla cravatta, vabbè, stamattina è venuto un po' storto, però era un po' quello casual che mi sono fatto. Me l'ha insegnato mio padre, come si vedeva prima nel video. Io ho dovuto chiedere a papà come si faceva il nodo della cravatta. E ho dovuto chiedere tante altre cose. E non rinnego quindi l'esempio di mio padre e tutto quello che lui mi ha insegnato. Ma mi rendo anche conto quanto più semplice sarebbe potuta essere la nostra relazione se in tante situazioni ci fossimo fermati un attimo e avessimo messo Dio al centro lì a dirci come fare, a ispirarci al suo modello di padre. Perché noi, ricordiamocelo, prima che Luigi e voi, siamo figli di Dio. E quindi la relazione filiale Dio-Padre, la conosciamo bene. Dio-Padre, noi la conosciamo molto molto bene. Sappiamo come Dio ci ama. E se non lo sai, io ti dico che aspetti. Che aspetti a scoprire questo amore, che non ha dimensioni, che non puoi descrivere a parole, puoi tentare, ma non riuscirai mai a descriverlo nella sua immensità. Prendi questo amore per te. E lo dico soprattutto ai papà oggi, ma lo dico a tutti quanti noi, perché nel prendere questo amore noi riceviamo l'adozione a figli di Dio e in questo abbiamo un modello chiaro e preciso al quale possiamo rivolgerci. Però ancora qui è ancora tutto troppo a parole. E Dio, sapendo che noi nelle parole a volte ci perdiamo, ha detto ok, vi devo fare il disegnino. Perfetto? L'immagine che abbiamo di questo papà con questo bimbo sulle spalle è un'immagine che ci porta subito a quello che potrebbe essere la relazione tra un padre e un figlio, specie proprio nella fase prima di vita di un bambino. Però poi guardiamo alla nostra vita e forse pensiamo, mio papà non mi ha mai preso sulle spalle. O forse lo ha fatto fisicamente, ma nella vita non l'ha mai fatto con me. Non mi ha mai incoraggiato così tanto, non mi ha mai spinto a guardare oltre. Quando un papà prende sulle spalle un figlio, sapete che gli dà una prospettiva che neanche il papà può avere? Perché la porta ancora più in alto di se stesso. E noi a volte non abbiamo avuto questi papà che ci hanno messo sulle spalle, non materialmente, fisicamente, ma non ci hanno permesso di vedere oltre. Ma la cosa fantastica è che Dio può dare a te e a me la prospettiva alta che Lui ha, perché ce la dona. Quindi se non hai avuto questa occasione di vedere oltre la vista di tuo padre, Dio Padre oggi può darti questa prospettiva alta. Chiedila. E Lui, nella sua generosità, nel suo amore per te, te la dona, ti dà un punto differente di prospettiva proprio sulla vita e sul tuo destino di vita. Però poi, praticamente, io mi rendo conto che a volte i papà non permettono ai figli di poter vedere oltre, non riescono, non sono di sostegno, non sono di incoraggiamento, perché loro non sono stati incoraggiati, loro non sono stati sostenuti, loro non sono stati presi in braccio e a dire guarda. E allora, che succede? È troppo tardi? No. Si può incominciare. E stamattina incominciamo proprio con questo equipaggiamento. Nella lettera di Efesini, ma questo ripeto, per tante volte nella Bibbia si ripetono queste cose, c'è un bel paragrafetto alla fine del capitolo 5 e poi all'inizio del capitolo 6, dove Dio va a dare delle prescrizioni su come i figli dovrebbero comportarsi con i padri con i figli, marito, moglie, servi, padrone, che quindi potrebbe essere il nostro contesto lavorativo. Se si va ancora prima nella lettera ad Efesini, c'è tutta una descrizione di come dovrebbe essere la condotta del cristiano, quindi ancora devi fare, devi dire, devi comportarti, e quindi una bella lista di devi, a volte, di sarebbe buono che, devi fare così, la perfezione. Se prendessimo quelle prescrizioni e le applicassimo nella nostra vita, avremmo un mondo perfetto. Però il mondo perfetto non è, e quindi dove sta il problema? Il problema credo che stia nel fatto che poi non continuiamo a leggere. Dopo che c'è tutta questa lista infinita, dettagliatissima, di consigli su come poter vivere le relazioni in una maniera sana, la parola di Dio dice questo. Lo leggiamo insieme. In Efesini 6, dal verso 10 al verso 18. Del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzatura ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace, prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno, prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi. Se pensate che vivere si tratta semplicemente di avere a che fare con un'altra persona, ci sbagliamo. Se pensate che crescere un figlio sia dover pensare alla sua educazione, pensare all'istruzione, allo sport e alle vacanze, cari genitori, vi sbagliate. Nel momento in cui un figlio vi è dato, nel momento in cui una persona vi è messa vicino, nel momento in cui una relazione inizia, anche fra amici, sapete che noi stiamo contribuendo ad incoraggiare, sostenere ed equipaggiare quella persona a vivere il proprio destino di vita. E di destini di vita ce ne sono semplicemente due: con Dio o senza Dio. Non si tratta di avere a che fare con un'altra persona, di prendersela con un'altra persona, di imporsi su un'altra persona, di dire si fa così perché io credo che così sia giusto educare, perché così io credo sia giusto comportarsi. Dio, dopo aver fatto tutta quella lunga e dettagliata serie di prescrizioni, dice: attenzione ragazzi, che qua stiamo parlando non del livello umano, ma qui andiamo ad un livello superiore, che è quello spirituale. Come Dio spera e crede in una famiglia unita, perfetta, in una chiesa che si ama, in una società che possa riflettere l'amore di Dio Padre, dall'altra parte c'è qualcuno, il diavolo, che sta pensando completamente in termini opposti. E la tua casa, la tua famiglia, non può scappare a questa cosa. Se lasci che chiunque possa entrare in casa tua e incominciare a dire le tante altre mezze verità. Perché ci sono tante mezze verità. E i nostri figli le sentono. Quando io vivo una relazione con una persona, mi rifaccio a quelli che sono i modelli che questa società propone. Ed è quasi naturale, non ci rendiamo conto. Ma io dico, svegliamoci stamattina. E questo lo dico a mamma e papà, lo dico a marito e moglie, lo dico ai ragazzi e alle ragazze, lo dico ai bambini. Sveglia, svegliamoci. Miriam, sei sveglia? Sì, ti vedo bella attenta, mi piace. È il momento in cui una generazione nuova, e quando dico generazione nuova non sto dicendo i giovani, no, io e te, qualunque sia la tua età, che si alzino in piedi, si rendano conto che la propria famiglia, le proprie relazioni sono sotto assalto. Ragazzi, siamo sotto assalto. La Chiesa non è priva di questi assalti. Non è un luogo dove stare belli tranquilli e protetti. Purtroppo no. Sapete come ci proteggiamo da queste cose? Seguendo il consiglio di Dio. E riusciamo ad essere dei buoni padri, riusciamo ad essere dei buoni amici, riusciamo ad essere dei buoni figli, se ci alziamo e dritti ci rivestiamo di quell'armatura. Ed è un'armatura particolarissima, speciale, perché se ci rendiamo conto, principalmente questa armatura fa due cose. Uno, ci permette di difenderci, e la maggior parte degli elementi sono in difesa per noi. Quindi cosa significa? Che Dio ci tiene a noi. Non ha detto, vai, spacca tutto, vai, affronta, vai, non ti preoccupare, dai, no. No, non è un falso motivatore Dio. Se Lui ti dice qualcosa, ti ha equipaggiato per poterlo vivere. Quindi, caro papà, se non ti senti incoraggiato fino ad oggi, io dico, probabilmente non sei andato alla fonte di incoraggiamento, quella vera, quella essenziale, che è Dio, e che ti riveste di questa armatura, come riveste tutti quanti. Dal più piccolo al più grande. Vediamo velocissimamente questa armatura, di cosa è composta. La cintura della verità. Se c'è una cintura della verità, come vi dicevo prima, significa che c'è un qualcos'altro della bugia. Allora, o indossi, perché nudo non ci puoi andare, allora o indossi la cintura della verità o indossi un qualcos'altro della bugia. C'è bisogno di capire dove sta la verità, e la verità la trovi nella parola di Dio. Diversamente non avrai mai la certezza di trovare la verità. Lo dicono i libri. Andate in libreria, andate nel reparto di sociologia, pedagogia, psicologia e troverete la caduta delle verità assolute. Nessuno più vi dà la sicurezza di avere una cosa che sia vera. Sono probabilità. La parola di Dio, no. Assolutamente no. È verità. Mettetela in dubbio e vediamo se ne siete capaci. Perché mai nessuno studioso si è improvvisato confutatore della parola di Dio? Ci hanno provato, ma non ci riescono. Perché? Perché è parola vivente, è una parola che ti vive qui dentro, che ti trasforma, che ti cambia. Corazza della giustizia. Attenzione qui, molto spesso c'è un equivoco. Non sto dicendo che vestendo la corazza della giustizia tu sai cosa è giusto o non giusto. In quello già siamo bravi. Questo si fa, questo non si fa, no, come dico io è giusto, non come dici tu. No, non è questa la corazza della giustizia, ma è qualcosa che difende i nostri organi vitali, difende il nostro cuore, la nostra anima. Da che cosa? Dall'accusa di essere imperfetto, dall'accusa di essere un peccatore, dal fatto che è bugia che Gesù ti ha giustificato. Questa è la giustizia. È la giustizia di Dio per te e per me, che ci rende degni, riconoscendo in Gesù e nel suo sacrificio, la trasformazione per le nostre vite e l'acquisizione di una nuova identità. Veniamo chiamati ad essere figli di Dio e lì inizia la nostra nuova, vera vita. Prendi questa corazza. Senza di quella corazza, sai quante cose ti passeranno nell'orecchio? Gesù cambia, Gesù trasforma, ma vedi che sono sempre lo stesso io. Indossiamo la corazza della giustizia. Questi fantastici calzari, queste scarpe fantastiche, sono più che calzari, le vorrei più giniche, un po' sneakers, per poter correre. E perché sono scarpe particolari che mi permettono di poter andare con una passione, l'Evangelo. Cioè il messaggio di grazia di Dio, per quello che ha fatto per me e per quello che può fare per gli altri. Cosa significa che devo aprire la porta la mattina, andare in mezzo alla strada, dire Gesù ti ama, ravvediti? Boh, potrebbe anche essere, se Dio me lo chiede, ma io credo che nelle nostre vite quotidiane, nelle nostre relazioni, noi dobbiamo incominciare a parlare parole di grazia, parole di amore, sulle situazioni, sulle persone. Padri, lo so che noi figli siamo insopportabili. Lo so che non vi ubbidiamo, però piuttosto che dire, ecco, è l'ennesima volta che non mi ubbidisci, parla parole di grazia. Il che non significa, perché attenzione, stiamo andando nell'eccesso ora, molto spesso, permetto qualsiasi cosa a mio figlio. Quella non è libertà, attenzione, li state mandando dritti in prigione, in tutti i sensi. Materiale e dell'anima, dello spirito. I padri prendono da Dio l'autorevolezza, non l'autorità. Autorità è battere il pugno, l'autorevolezza è diverso, è io che riconosco il mio padre che quando parla sta parlando sul giusto, ma non perché si è imposto, perché mi ha dato di poter vedere che cosa è giusto, che cosa è buono. E ancora, scudo della fede, ne abbiamo bisogno. A un certo punto arriveranno altre vocine nell'orecchio che ti diranno Dio non è fedele, Dio non cambia le situazioni, Dio è bugia che trasforma le vite. Qui devi prendere lo scudo della fede e devi difenderti da queste frecciate. È l'intento del diavolo, prendere e portarci il più lontano possibile da Dio. Come lo farà? Minando la nostra fede, la nostra fiducia in Lui, in Dio. E ancora, l'elmo della salvezza. È fantastico quest'elmo, perché lo metti in testa ed è un elmo a forma particolare, perché parla di Gesù, parla della sua salvezza, è scritto nella sua parola che la nostra mente è trasformata in Cristo Gesù. I tuoi pensieri cambiano in base non a quello che è il tuo sforzo, il tuo impegno, sì, la forza di volontà ci serve, ma è limitato l'effetto che può produrre su di noi. Puoi tenere a bada i pensieri per qualche ora, per qualche giorno, ma poi ritorneranno. Indossa l'elmo della salvezza e lì i tuoi pensieri riceveranno una trasformazione, che è la trasformazione che Gesù opera nelle nostre vite. Indossiamo quest'elmo. La spada dello Spirito. Questa è l'unica arma che ci viene proposta. Fino ad ora eravamo tutti quanti in difesa, ma a un certo punto Dio dice: dobbiamo pure attaccare. E prendi la spada. Prendi questa spada. È la parola di Dio. La parola di Dio ci permette di tirare una linea netta fra ciò che è bianco e ciò che è nero. Non lascia dei bordi frastagliati in maniera tale che si creino situazioni di grigio. No, è netto il taglio. Non ti serve aver fatto una scuola biblica per capire ciò che è giusto o ciò che non è giusto, ciò che è buono da ciò che non è buono, ciò che è sano per te da ciò che non è sano per te. Se prendi la parola di Dio, è netto il taglio fra le due parti. Armiamoci della parola di Dio. Cosa significa? Leggila. Falla tua. Usala. Pregala. I versi di Efesini terminano dicendo pregando. Tutto questo deve essere vissuto in preghiera principalmente. Prego per me affinché possa essere incoraggiato, sostenuto da Dio, ma poi prego per gli altri. E prego per i miei figli, e prego per i miei amici, e prego per mia moglie, e prego per mio marito, prega per chiunque tu voglia, ma prega costantemente rivestito di quell'armatura, perché diversamente anche la tua preghiera cederà, non sarà più costante come viene detto. Devi vegliare sugli altri, addirittura c'è scritto. E questo non significa fare pettegolezzo, ma significa in preghiera alzarti a difesa di tutte quelle relazioni che tu sai possono essere minate in questo momento, ma anche per quelle che vanno già bene, affinché non possa entrare uno spiraglio, non ci sia neanche uno spiraglio che permetta ad una falsità, ad una bugia di entrare e incominciare a rovinare. Le famiglie sono la cosa più bella che Dio poteva fare. Li ha create appositamente perché potessero essere fondamento per la sua chiesa, perché potessero essere fondamento per la sua società. E tu, caro papà, sei chiamato a fare questo. Principalmente sei chiamato ad essere un guerriero, che prende però la forza, perché guerrieri lo siete già, lo so. Vi date con tutto voi stessi, vi impegnate, andate oltre le vostre forze e vi ringraziamo per questo. Però, se vuoi essere un papà equipaggiato, sostenuto, incoraggiato, vestiti di questa armatura, vai a Dio, chiedigliela, digli: io la voglio indossare ogni giorno affinché tu ti possa mettere a veglia della tua famiglia, dei tuoi figli. E prega, prega incessantemente. Dio a un certo punto ti fa un regalo grandissimo, caro papà. Non solo ti dice di diventare guerriero, ma ti rende un re guerriero. Nel momento in cui ti riscopri figlio di Dio, Dio ti riveste di una regalità. Non sei un semplice guerriero, un soldatino da poco. Sei un re guerriero. E Dio ti dà un territorio da proteggere, ti dà un territorio da dover difendere, un territorio sul quale proferire le promesse di Dio. I tuoi figli ti sono stati dati affinché tu li possa equipaggiare per poter perseguire un destino di vita eterno che riguarda loro e Dio. E tu oggi, qua parlo soprattutto ai genitori con i figli in infanzia, hai tutte le occasioni per poter tirare su un altro favoloso guerriero. Rivestiti di questa identità, non sei uno da poco. Dio ha dato per te Gesù. La tua forza viene da Gesù. Sapete dirmi quanto è forte Gesù? Bravissima, così. Così è la forza che è messa in te nel momento in cui vai a Gesù e gli chiedi forza. Questa è la forza di Gesù per te. Rivestiti dell'armatura e accetta l'identità regale che Dio ti dà. Come? Riscoprendoti figlio di Dio. Scoprendoti figlio di Dio saprai com'è il Padre e tu sarai un figlio tale Padre e avrai la sicurezza di poter crescere un altro figlio, quello naturale, tale al Padre Celeste. Questa è la unica e sola sicurezza che possiamo avere in termini di crescere i nostri figli, tirare su delle famiglie sante e sane. Andiamo dal Padre, riscoprendoci figli di Dio Padre, metteremo su una nuova generazione di figli tali e quali, uguali al Padre. In genere le imitazioni non ci piacciono, le scimmiottiamo, ma in questo caso io dico, facciamo la fotocopia di Dio. Facciamo le fotocopie di Dio, è importantissimo. Non sottovalutiamo l'occasione che abbiamo di poter crescere una nuova generazione che si ispira a noi, modelli di cristiani che prendono esempio dal Padre. E tu puoi dirmi, forse io non ho mai effettivamente conosciuto questo Padre. Sì, Dio so che c'è, so che mi guarda, so che mi guida, che mi dice piuttosto come fare, come non fare, ma io non lo conosco come Padre. Hai mai chiesto a Dio di prenderti in braccio? Se lo fai, ti sfido. Io ho fatto così. Ti sfido, uomo, donna, bimbo, chiedi a Dio, prendimi in braccio. L'abbraccio che Lui ti dà ti sconvolge, lì lo scopri Padre. Un amore mai provato prima, che ti penetra, ti travolge, ti lascia senza parole, perché non puoi definirlo. Arrenditi alle braccia di Dio Padre e avrai tutto l'equipaggiamento per poter essere un buon padre. Annulla il ricordo che potresti avere di tuo padre naturale se è stato negativo. Valorizza comunque il suo averti dato la vita. Dio era lì in quel momento, Dio aveva il controllo. E l'amore più grande che tu possa dare oggi è quello che tu puoi rimettere nei cuori e nella vita di tuo figlio. Dio te lo ha dato affinché tu possa tirare su un capolavoro, e Dio fa solo capolavori. Affidiamoci a Lui e Lui compie l'opera. Vi voglio invitare ad alzarvi e voglio fare questa preghiera. So che è un tema particolare, so che tante sono le ferite che insomma si muovono nel nostro cuore, fanno male. Io ho dovuto risolvere il mio rapporto con mio padre a un certo punto, mio padre naturale. L'ho dovuto affrontare, non è stato semplice. Ma non l'ho affrontato da Luigi, persona, ragazzo. L'ho affrontato dopo che ho scoperto Dio Padre. Scopri Dio Padre e potrai vivere il tuo rapporto, qualunque esso sia, con un modello ed un esempio che non ha paragoni su questa terra. Chiudiamo i nostri occhi e preghiamo un attimo. Caro papà, noi siamo davanti a te questa mattina per dirti che abbiamo un estremo bisogno di te. Noi abbiamo un estremo bisogno di poterti vivere, un estremo bisogno di poterti sentire nei nostri cuori in questo momento. Noi abbiamo bisogno di un tuo tocco, noi abbiamo bisogno di un tuo abbraccio ora, in questo istante. Ed io prego, Signore Gesù, per tutti quei cuori amareggiati in questo momento, per tutti quei cuori feriti, metti la tua mano su di loro, santifica, porta guarigione, cambia la prospettiva su se stessi e su quello che può essere stato il nostro padre naturale, e riceviamo anche una passione che brucia dentro di noi, che ci porta a perdonare, che ci porta ad accettare, che ci porta a vivere in una prospettiva nuova, che è sotto l'amore tuo, quell'amore che tu hai per tutti quanti noi indistintamente, bravi e meno bravi che potremmo essere. Tu ci ami e ci guarisci che ci porti a vivere una vita nuova in te, Signore Gesù. E noi vogliamo ricevere questa vita questa mattina, la vogliamo per noi, vogliamo una identità nuova, vogliamo scoprire un nuovo vederci, un nuovo vivere anche la nostra genitorialità. Questo lo prego per le famiglie qui presenti in questa chiesa. Io prego che possano essere famiglie consacrate in te. Io prego che possano essere famiglie che siano fondate sulla tua parola, che facciano della tua parola il loro fondamento e che non muovano un passo senza che tu abbia dato l'ok, senza che tu abbia messo il sì, la certezza che è la cosa giusta. Ti prego di poter equipaggiare sempre di più tutti i genitori qui presenti a vivere una relazione con i propri figli che sia guidata da te, che sia santificata in te, che sia specchio della relazione che voi vivete, Dio Padre, Gesù Figlio. Insegnaci questo, Padre, insegnaci a guardare a te e a prendere da te l'esempio di come poter vivere un amore incondizionato, un amore che si dà completamente, un amore che non fa differenze. E io ti prego per tutte le relazioni, Signore, per tutte quelle relazioni difficoltose, io prego per tutte quelle difficoltà che incontriamo giorno dopo giorno, ti prego, equipaggiaci a poterle vivere affinché compiendo quello che ci dai di poter compiere restiamo dritti, fermi davanti alle insidie del diavolo, davanti agli ostacoli che possiamo incontrare. Se il diavolo semina divisione, noi vogliamo seminare diversamente amore, comunione, fratellanza, guardando sempre nuovamente a te, a quello che tu fai, a quello che è il tuo desiderio. Noi crediamo in una chiesa che è specchio su questa terra di quella che è la relazione fra Gesù Cristo è la sposa tua, questa chiesa, e di quella unione intima, perfetta, compatta, noi vogliamo essere testimoni in questo mondo. Quando ci muoviamo, quando parliamo, quando agiamo, permetteci di poter essere il riflesso di tutto questo. E ti prego, dai consapevolezza alla nostra mente di poter essere svegli e capire che cosa si sta muovendo dietro quando vediamo un problema, quando vediamo una difficoltà, che non ci possiamo focalizzare principalmente sull'altro e risolvere l'altro, ma che possiamo guardare a te e capire che lì c'è un piano malefico dietro e che possiamo intervenire nello spirituale rompendo queste divisioni, strappando alle mani del diavolo il territorio che ci è stato rubato e riconquistandolo per te nel nome tuo, Signore Gesù. Non è per la nostra forza, non è per quello che noi possiamo fare, non ne siamo capaci, ma riconosciamo invece in te, Signore Gesù, una forza soprannaturale che ci è data di poterla vivere in tutto, tutta la sua interezza, in tutta la sua pienezza, nell'essere uno con te, Padre. Noi sappiamo di avere le promesse, di avere la benedizione, di avere la protezione per le nostre case, per le nostre vite. E in questa mattina io chiedo che venga rilasciata in maniera abbondante questa benedizione su ogni casa. Tu conosci le problematiche all'interno delle mura domestiche. Intervieni, Signore Gesù. Noi non sappiamo, noi non conosciamo, ma io ti prego che possa essere oggi aperta una porta chiara, precisa, spalancata, che ti permette di poter entrare e incominciare a trasformare le relazioni, a seminare un amore che è diverso, che è nuovo, che non è quello che siamo, al quale siamo abituati, che non è fatto soltanto di tante parole, ma è fatto di azioni pratiche che parlano dell'amore del Padre, Dio Padre, per i suoi figli. Io ti ringrazio perché ci hai dato dei papà fantastici. Grazie perché nella loro imperfezione, grazie perché nei loro tanti difetti ci li hai messi accanto, e nel bene e nel male vogliamo ringraziarti per loro. Grazie perché ti sei servito di loro per darci la vita, e noi ti ringraziamo per la vita che abbiamo e vogliamo che la nostra vita sia un profumo di lode a te, che la nostra vita parli di chi tu sei, che la nostra vita sia manifesto chiaro e preciso di chi tu sei, Gesù, e che sia invidiabile dagli altri, che possano venire e conoscere e vivere la stessa benedizione che è su te. Prego anche per tutti i figli qui presenti, al più piccolo al più grande. Aiutaci ad essere amorevoli nei confronti dei nostri genitori e dacci di poter ricevere sapienza su come vivere anche il nostro rapporto filiale. Te lo prego nel nome tuo santo, Signore Gesù. Grazie per il segno incancellabile che hai messo sulle vite di ogni persona qui presente questa mattina, che possa essere valorizzato, che possa risplendere di tutta la tua luce, che possa parlare dell'amore tuo, Padre, e che possa dire chiaramente che tu li hai chiamati ad essere tuoi figli, e in questo ti glorifichiamo, in questo ti diciamo grazie, grazie, infinitamente grazie per tutto l'amore che hai rivelato per noi, Signore Gesù.